le 9:56 di domenica 25 febbraio 2024 e intanto vorrei ringraziare Leonardo Zaccone che ha menzionato Pendo Delirio nella sua rassegna culturale che conduce in podcast nell'ambito del podcast Sveglia, che ricordo sempre volentieri, rassegna culturale che si chiama Il Tamburino e che invito tutti a seguire. In generale invito tutti ad abbonarsi a Sveglia perché è l'unico podcast autenticamente romano in questo momento. Tra le varie cose che dice Leonardo è che Pendo Delirio è anche lui un podcast romano. Io lo ringrazio molto, parlo spesso di Roma, vivo a Roma, ho vissuto a Roma complessivamente 40 anni e ci sono anche nato, questa è una cosa di cui vado molto orgoglioso, tiro sempre fuori questa carta d'identità un po' sbiadita, anche se sono di origini toscane e ho girato chiaramente molto, soprattutto quando ero piccolo, ero adolescente, perché mio padre faceva un lavoro che mi portava ad avere quattro angoli del pianeta. E però poi appunto è venuta fuori tutta la mia anima provinciale, direi versiliese soprattutto, e Roma è una città abitata in larga misura da provinciali riadattati, cioè quelli che i papalini chiamavano i buzzurri, cioè quelli venuti da fuori per rendere la città una città normale, senza peraltro mai riuscirci. E infatti quasi subito desistiamo e diventiamo meravigliosamente anormali pure noi. E comunque quello che volevo approfondire stamattina era più che altro un commento su questa manifestazione che c'è stata al Macro in questo weekend, fondamentalmente un giro di incontri organizzato da un team di architetti coordinato da Stefano Boeri che si chiama Laboratorio Roma 050 e che parla naturalmente di visioni del futuro di Roma. Tra l'altro Boeri, essendo un architetto, insomma, un personaggio associato al Bosco Verticale di Milano, costruzione molto suggestiva ma che ha attirato tante critiche, soprattutto il fatto di appartenere a questa sorta di marketing dell'architettura e delle idee. In realtà Boeri è un personaggio secondo me molto molto interessante. Io ho letto alcuni suoi libri, soprattutto L'Anticittà mi ha molto colpito, che parla proprio delle caratteristiche degli sfilacciamenti urbani sul tessuto, sul territorio italiano, che negli anni è stato modificato in un modo che potremmo definire autenticamente italiano. E quindi se davvero dobbiamo trovare tracce del contemporaneo di questo nostro paese, lo troviamo proprio nel modo in cui la città, i brandelli di città hanno occupato il territorio, e anche all'interno di questo processo io sicuramente colloco anche le città lineari come la via Cassia vicino a Roma, di cui ho parlato nelle puntate precedenti. Quindi sicuramente Boeri è una persona che mi ha aiutato ad aprire lo sguardo su questo fenomeno. Comunque, detto questo, tra i vari incontri, tutti devo dire abbastanza interessanti, ce n'è stato uno con un confronto abbastanza serrato tra Valerio Mattioli, che è un curatore di Nero Edizioni e anche, diciamo, sicuramente un profondo conoscitore delle culture metropolitane, della periferia soprattutto, e l'assessore alla cultura Miguel Gotor, o Gotor, non ho mai capito bene come si pronunci comunque. E fondamentalmente Mattioli ha assistito in silenzio, ha ascoltato in silenzio tutta la prima parte dell'incontro, che era dedicato agli immaginari che leghiamo a Roma, e il suo intervento è stato abbastanza polemico, cioè lui diceva che non si riconosce nell'immaginario dominante e anzi ha considerato gli altri interlocutori, cioè sembravano un po', gli sono sembrati un po' come dei marziani che parlano di qualcosa che non conoscono, perché vivono nella bolla dei privilegiati, del centro storico. Allora, lui invece vive in periferia, vive a Torre Maura, fondamentalmente dicendo: non mi riconosco nel vostro racconto della città, perché voi state raccontando questo 1%, che è una sorta di buco, che è il centro storico, ma la vera città è Roma, Roma è la periferia, che è largamente condivisibile, anche se l'iperbole 1%, secondo me non c'era bisogno di dire 1%. Nel comune di Roma vivono 180.000 persone, quindi siamo al 7%, diciamo, degli abitanti, molto meno in termini di territorio, lo sappiamo. Roma è sterminata come periferia, abbastanza angusta come centro storico rispetto alla città, naturalmente, perché poi bisogna sempre essere relativi. Il centro storico è il secondo, il terzo più grande comunque d'Italia. Pare che il più grande sia Genova e poi viene, credo, Napoli, però insomma. E bisogna sempre vedere cosa si intende per centro storico, se si parla di mura aureliane, per esempio, di grandezza dei municipi, non lo so. Comunque, superiamo un attimo questa questione delle dimensioni, che non mi appassiona. Io credo che questo sentirsi parte di una vera Roma che non ha minimamente a che fare con il centro storico sia un po' il problema opposto. Cioè, se viviamo in un contesto in cui purtroppo la periferia è raccontata dal centro della città in prevalenza, questo racconto è soverchiante, ma non solo dal centro della città, anche dal centro dei media, no? Quindi l'industria dei media ha un suo centro e lascia anche ai luoghi del racconto periferici il contenuto del racconto periferico, no? Poi a volte c'è il salto di scala, Zero Calcare ne è il caso più evidente, e allora si innesca qualche cortocircuito anche positivo, perché si aprono visioni diverse sulla città e che diventano anche visioni di massa finalmente. Però ecco, io quello che credo che non si debba neanche commettere l'errore opposto, cioè pensare di poter raccontare il centro della città da fuori, cioè l'unico modo per raccontarlo è da fuori. Non possiamo dimenticare che non solo queste 180.000 persone hanno comunque anche loro dei diritti come cittadini, e che non sono tutti dei parassiti, non sono tutti, diciamo così, gestori di Airbnb intensivi, ma sono anche persone che lavorano, studiano, fanno cose, magari partono da condizioni molto privilegiate, ma non è soltanto questo il punto. Il punto è che il centro non è indifferente rispetto al motivo per cui viviamo a Roma anche in periferia. Cioè, io per intenderci credo che Valerio Mattioli, se abita a Torre Maura e non a Civitanova Marche, non può essere casuale. Cioè, il fatto che comunque questo luogo così inospitale, che ti respinge, così ostile, che è il centro storico, che ti guarda di sbieco, ti considera un alieno, comunque il fatto che sia lì per te è comunque importante. Lo è anche per me, che vivo lontano dal centro storico. Però insomma, sapete che c'è questa macchina di produzione di senso che è la città, che produce così tanto non solo per noi ma anche per il mondo, è qualcosa che continua tutti i giorni a confortarmi e a spiegare come mai abito qui e non più per esempio alla Spezia dove ho vissuto o a Livorno dove ho vissuto e sono cresciuto.